Capitolo 22 Davide prepara le cose necessarie per edificare il Tempio del Signore, e ordina a Salomone di fabbricarlo, e di onorare sempre con ogni studio il Signore. Esorta i principi ad assisterlo. Davide disse, qui è la casa di Dio, e questo è l'altare degli olocausti di Israele. E ordinò, che si convocassero tutti i proseliti delle terre di Israele, e di essi ne scelse degli scarpellini per tagliare, e pulire le pietre per la fabbrica della casa del Signore. Preparò ancora Davide moltissimo ferro per fare i chiodi delle porte, e per commettere insieme, e legare le pietre, e i legnami, e quantità immensa di bronzo. Era parimenti inestimabile l'ammasso dei legnami di cedro portati a Davide dai Sidoni, e dai Tiri. Però che disse Davide, Salomone mio figliuolo è giovinetto tenero, e debole, e la casa, che io desidero, che si erga al Signore, debba esser tale, che abbia nome tra tutte le genti, io adunque anderò preparando quel, che vi bisogna. E per questo prima della sua morte ne fece anticipatamente tutte le spese. E chiamò a sé Salomone suo figliuolo, e gli ordinò di fabbricare la casa al Signore Dio di Israele. E Davide disse a Salomone, figliuol mio, io ebbi in animo di edificare una casa al nome del Signore Dio mio, ma il Signore parlommi, e disse, tu hai sparso molto sangue, e hai fatte molte guerre, tu non potrai edificare la casa al nome mio, avendo sparso tanto sangue dinanzi a me. Tu avrai un figliuolo, il quale sarà uomo di pace, io farò che egli non sia disturbato da aver uno dei suoi nemici all'intorno, e per questo egli sarà chiamato il pacifico, e pace, e tranquillità darò io ad Israele per tutto il tempo di sua vita. Egli edificherà la casa al nome mio, ed egli sarà mio figliuolo, e io sarò gli padre, e stabil farò il trono del suo regno sopra Israele in eterno. Ora dunque, figliuol mio, sia teco il Signore, e vivi felice, ed edifica la casa al Signore Dio tuo, come egli ha di te predetto. E diati di più il Signore prudenza, e senno, affinché possi governare Israele, e osservare la legge del Signore Dio tuo. Impero che allora potrai andare di bene in meglio, se osserverai i comandamenti, e le leggi intimate dal Signore a Mosè, perché le insegnasse ad Israele, fatti animo, opera virilmente, non temere, non ti sbigottire. Ecco, che io nella mia povertà ho preparato il bisognevole per la casa del Signore, 100.000 talenti d'oro, e 1.000.000 di talenti d'argento, il bronzo poi, e il ferro è in tanta quantità, che sorpassa ogni calcolo, e legnami, e pietre ho preparati per tutti i bisogni. Hai ancora moltissimi operai, scarpellini, e muratori, e legnaiuoli, e artefici d'ogni maniera abilissimi nei loro mestieri, sia d'oro, sia d'argento, e di bronzo, e di ferro, ed ei sono senza numero. Muoviti adunque, e opera, e il Signore sarà teco. Comandò ancora Davide a tutti i principi di Israele, che assistessero Salomone suo figliuolo. Voi vedete, disse loro, come il Signore Dio vostro è con voi, e vi ha dato riposo da tutte le parti, e ha dati nelle mani vostre tutti i vostri nemici, e la terra è soggetta al Signore, e al suo popolo. Disponete adunque i vostri cuori, e gli animi vostri, e cercate il Signore Dio vostro, e risolvetevi, ed edificate un santuario al Signore Dio, affinché l'arca del testamento del Signore, e i vasi consacrati al Signore siano stati nella casa edificata al nome del Signore. Note, tutti i proseliti delle terre di Israele, e di Essek. In questo luogo la voce proseliti significa gli avanzi dei Shananei, ai quali era stata salvata la vita con la condizione di rinunziare all'idolatria, e di rimanere servi pubblici. Due punti dinanzi a me. È una giunta che amplifica la copia del sangue umano sparso da Davide in tante guerre, benché giuste. Due punti nella mia povertà ec. Davide pieno dello spirito di fede mira come un nulla tutto quello che gli uomini possono offerire a Dio, però che può mai otterirsi egli, che abbia qualche relazione a quella infinita grandezza? E che può offerire a lui un uomo, qualunque egli sia, che donno non sia del medesimo Dio.